Yes People, questo è Jolly Roger. Puntata di venerdì 10 marzo, è stata una settimana ricca di eventi. Abbiamo festeggiato tutti quanti la festa delle donne, anche se le donne vanno festeggiate 365 giorni l'anno. E saluto tutti gli amici e tutte le amiche che frequentano il Branca, tutti i colleghi di Tea Prisma, salutiamo anche gli amici di Radio Gemini e soprattutto Radio Grad, che ci ritrasmette il mercoledì sempre dalle 17 alle 18. È una puntata ricca, accenneremo un po', il nostro amico Luchetto ci parlerà della festa delle donne, dopodiché il tema della puntata sono i colori, le sfumature. Proprio qualche minuto fa, in quel di Via Levanna, si vedeva un bellissimo arcobaleno, proprio un auspicio per questa nostra nuova puntata. Iniziamo con la prima traccia musicale e poi iniziamo la nostra puntata. Questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Che fiducia avanzo, un passo dopo l'altro, se la speranza è pesa un filo che sembra un cappio, incappo in un sacchetto della tua indifferenza, in fondo a questa strada hanno già perso la pazienza, i corsi di paura, ricorsi della storia, per trattenerci in una morsa senza memoria, senza memoria. di fare un tuffo in mare, ma poi ti rifiuti. Tra i tuoi rifiuti, tu ti rifiuti, poi mi rifiuti, poi ci rifiuti. Tutti. Questo è il futuro che sognavi per te. Credevi fosse più lontano, Ti senti fuori tempo, limiti contro ogni previsione. Hai perso il desiderio della rivoluzione. Arrestano un ragazzo, lo uccidono per spaccio. L'involuzione che fa specie trova consenso. La vita è un dono sacro, l'eutanasia è un peccato. Se muore un uomo in mezzo al mare, solo un immigrato. Si paga pure l'aria, la gente non respira. Mi chiedo ancora quanti sogni devo allo Stato. In questo Stato. Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger, tutti i venerdì dalle 17 alle 18 solo su www.pirateradio.it e non solo, perché il mercoledì ci ricondividono gli amici di Radio Grad e gli amici di Gemini Network, che salutiamo. Anzi, ricordo a tutti gli ascoltatori che 25 marzo qui in quel del Brancaleone ci sarà la giornata di Gemini Network. Poi piano piano spoileremo quella che sarà la giornata, una giornata ricca di workshop, incontri, dirette radio ovviamente, cabaret, libri, insomma chi più ne ha più ne metta. Ovviamente piano piano vi spoileremo, come ho detto prima, quello che sarà Gemini Network il 25 marzo in quel del Brancaleone. E iniziamo questa puntata, quindi come abbiamo detto all'inizio, è stata l'8 marzo è stata la festa delle donne, quindi partiamo subito con quello che è la festa delle donne e passo il mic al nostro amico Luca. Buonasera a tutti, io sono Luca e benvenuti qua al Jolly Roger e oggi vi racconto della festa delle donne. Risale ai primi del Novecento, per molti anni l'origine dell'8 marzo si è fatta risalire una tragedia accaduta nel 1908 che avrebbe avuto come protagoniste le operaie dell'industria tessile. Cotton di New York rimaste uccise da un incendio. L'incendio del 1908 è stato però confuso con un altro incendio nella stessa città, legati alla rivendicazione dei diritti delle donne. E io penso che la violenza sulle donne sia una cosa alquanto brutta e che non dovrebbe succedere, che se questa cosa non accadrebbe più, almeno potremmo festeggiare la loro libertà e tutti i loro diritti. E ora passo il mic a Pietro. Perfetto, una sintesi di quella che è la festa delle donne fatta in maniera egregia. E quindi abbiamo detto che, come diceva Luca, la donna va festeggiata tutti i giorni e soprattutto non va toccata nemmeno con un fiore. Questo ce lo stavamo dicendo proprio prima della diretta, anche perché è anche una base fondamentale di quella che è Pirate Radio, che è una radio che è contro il razzismo, contro l'omofobia e contro la violenza sulle donne. Visto che si parla di festa delle donne e si parla anche nella puntata di colore, passiamo un pezzo, una cover azzurro, tutta al femminile. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti, è un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me, mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te, ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole, tanti anni fa. Quelle domeniche da solo, in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, nemmeno un prete per chiacchierare. Azzurro. Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te, ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Rai, rai, rai, rai, rai, rai, rai. E questo era il primo pezzo che parla di colori, azzurro come azzurro dovrebbe essere il cielo, ma qui a Roma ultimamente è molto nuvoloso, quindi quel poco sole che esce si ci fa temere che prima o poi venga un po' d'acqua. Quindi mi raccomando, uscite anche con il sole, ma comunque con l'ombrello a portata di mano. Versione femminile, appunto, perché ricordavamo quella che è stata la festa delle donne. E quindi niente, adesso ripasso il mic al nostro amico Luca che ci dà le sue offerte e poi è il momento delle battute, casomai lo teniamo per un po' più tardi. Offerte supermercate Tigre. Fini candy bag Cinema Mix a soli 1,50 euro. Pecorino Romano DOP consiglia a soli 2 euro. Spaghetti Barilla numero 15 a 1,50 euro. Dal 10 marzo al 21 marzo. Se voi abitate a Vigne Nuove, state tranquilli, potete trovarlo sotto il Massa che ormai è chiuso e accanto al Mauris. Altro bello il nostro amico Luca con questi suoi consigli per gli acquisti. Ribadisco che a noi non ci danno una lira, anzi, non ci danno manco un pacchetto di spaghetti e fasse un piattino di pasta così, sale e olio, niente di che, insomma. E partiamo con un altro pezzo musicale scelto dal nostro amico Luca e poi ritorniamo in diretta. Questo è Jolly Roger, nel frattempo è arrivato anche il nostro amico Lucone, accompagnato dalla mamma, che è la seconda volta che ci viene a trovare con molto piacere. E con questo ribadisco che Jolly Roger è un programma aperto, ci trovate in quel di Via Levanna numero 11 al Brancaleone, non c'è bisogno di presentazioni sullo spazio, insomma. Ci è venuto a trovare anche il nostro amico il nostro amico Giacomo, Leonardo, scusate, e niente, quindi nella puntata, come ho detto prima, parliamo di colori, di sfumature, di tutto ciò, insomma, che ci accompagna durante il giorno. Diciamo che i colori li possiamo rappresentare, cioè sono la rappresentazione del nostro stato d'animo, il nostro stato d'animo, e quindi si trasmette attraverso anche come ci vestiamo. Tendenzialmente io sono una persona che non ama tanto usare i colori, quindi uso tendenzialmente il nero anche per una questione di comodità, anche se poi il nero è associato a tante altre mille sfaccettature, che sono la sfortuna, il lutto, quando poi alla fine il nero è un colore come il bianco, un colore che sta bene su tutto ed è un colore neutro, quindi diamo anche valore ai colori senza lasciarsi trasportare diciamo da quelle che sono poi le credenze popolari. Quindi quel di Jolly Roger, inizio puntata, rimpostiamo un po' quello che poi ci raccontiamo. Quindi è venuto fuori, insomma, quali colori ci piacciono di più, quali di meno, quelli che sono i colori un po' più conosciuti, quelli che non utilizziamo, perché tante volte siamo un po' ignoranti, perché i colori hanno mille sfumature, e queste mille sfumature ovviamente non tutte si possono conoscere. Soprattutto, diciamo, le persone che sono daltoniche, che già hanno problemi col colore normalmente, quindi figuriamoci con le sfumature. Però il bello è anche questo, insomma, poter parlare anche attraverso i colori del proprio stato d'animo, come dicevo prima. Detto questo, io mi sono permesso, e anzi mi permetto, di fare una domanda prima. Adesso la farò a Luca, poi le stesse domande le farò a Matteo. Caro il mio amico Luca, quale colore ti rappresenta di più e perché? Il colore che mi rappresenta è il rosso. Perché? Sta sul semaforo che dice stop. Anche l'arancione dice stop oppure puoi andare velocemente. Poi io sono un antifascista e quindi detesto proprio i fascisti e desidero eliminarli con una falce e il martello fatti bene. Quindi lui ama il rosso per diverse motivazioni. Ora, l'altra domanda era: descrivi o dai un colore a noi di Jolly Roger? Ad esempio, a me che colore daresti? Bianco celeste. Mo gli do subito una capocciata, così almeno poi si ricorda il bianco celeste e soprattutto le varie sfumature di bianco celeste. E invece a Chiara che colore daresti? Alla tua amata Chiara? Darei un rosso cuore perché gli voglio tanto bene, è dolce e carina anche. Esatto, perché il rosso è anche simbolo di passione, di amore e compagnia bella. Elena? A Elena gli direi un giallo biondo perché ha i capelli biondi e sembra Rapunzel della Disney. Perfetto, a Matteo che ce l'ha proprio, era l'unico colore che non dovevi dire a me, l'hai detto a me, quindi mo voglio vedere che te inventi con Matteo. Darei il marrone di Gargamella, dopo di tutto lui è Gargamella mentre tu sei grande puffo. Esatto, invece a Lucone, di Lucone che colore? Guarda, Lucone gli darei, non per offesa, gli darei un, non lo so, un bel yellow. Vabbè, un giallo, dire, mo siamo international. Io invece, allora, a Lucone gli do un bel verde, perché a parte che è vestito di verde, ma gli sta bene, e poi secondo me è un bel colore. All'amico Luca, effettivamente, il rosso lo rappresenta, anche se ci ha buttato de mezzo de tutto. All'amico mio Matteo gli do un bianco, dai, perché è un bel colore e riflette un po' come lui. Quindi alla mia amica Chiara gli do un bel fucsia, perché ce la vedo col fucsia. A Elena è vero, forse il giallo è il colore che più la rappresenta. Come dicevo prima, i colori sono anche credenzialità, ci hanno fatto anche diverse canzoni. Una di queste la passo perché è una cover molto interessante, che conosciamo tutti, sia bambini che adulti, e fa così. coccodrillo vero, un vero alligatore. Ti ho detto che l'avevo, l'avrei dato a te, ma impattirei in occhiare un coccodrillo a te. E tu dovevi dare un gatto nero a me. Volevo un gatto nero, nero, nero. Mi hai dato un gatto bianco e io non ci sto più. Volevo un gatto nero, nero, nero. Siccome sei un bugiardo, con te non gioco più. Volevo un gatto nero, nero, nero. Mi hai dato un gatto bianco e io non ci sto più. Volevo un gatto nero, nero, nero. Siccome sei un bugiardo, con te non gioco più. Non ero una giraffa di plastica o di stoffa, ma una in carne ed ossa e l'avrei data a te. Ma i patti rinucchiare una giraffa a te. E tu dovevi dare un gatto nero a me. Volevo un gatto nero, nero, nero. Mi hai dato un gatto bianco e io non ci sto più. Volevo un gatto nero, nero, nero. Siccome sei un bugiardo, con te non gioco più. Volevo un gatto nero, nero, nero. Mi hai dato un gatto bianco e io non ci sto più. Volevo un gatto nero, nero, nero. Siccome sei un bugiardo, con te non gioco più. E questo era un pezzo che, come detto prima, conoscono tutte, donne e bambini. Saluto il nostro amico Jack che ci saluta, è passato a salutarci tutti quanti e soprattutto a farsi un'idea di quello che è Jolly Roger. Quindi ribadisco, chi vuole passare ci trovate in quel di Via Levanna numero 11 tutti i venerdì dalle 17 alle 18. E proseguiamo la nostra puntata. Si parlava di colori, abbiamo dato un po' di colori, di solito diamo i numeri, ma stavolta diamo i colori, che è molto più bello e più colorato soprattutto. Allora, adesso io faccio la stessa domanda al mio amico Matteo: quale colore ti rappresenta di più e perché? Rosso. Ok, il rosso perché? Perché molto azzurro, azzurro. Ha ricambiato colore, ha detto lui gli piace un po' il rosso e un po' l'azzurro perché sono colori, come hai detto, colori caldi. Esatto, sono colori caldi. Allora, ora dai un colore a me e a Luca. A te, Piero, verde, Piero. Perfetto, il verde ci sta, ci sta. A Luca che colore dai? A Luca, il marrone. Marrone. Il marrone, anche il marrone è un colore. A Chiara? A Chiara bianco. Il bianco, anche se comunque è vestita di nero, però almeno così smezza un po'. Mo dice pure Chiara, c'ha le scarpe che è bianche, quindi è qualcosa di bianco ce l'ha. A Elena? A Elena nero. Il nero, anche se poi avevamo detto un giallo rosso. E invece a Lucone? Giallo, Lucone giallo. A Lucone il giallo. Non l'abbiamo nominata, ma salutiamo la nostra amica Alice che purtroppo all'ultimo ci ha diciamo avuto degli imprevisti e quindi non partecipa alla puntata di oggi. Che colore dai ad Alice, ma Ciccio? Blu. Perfetto, il blu. Insomma, come ognuno di noi sta dando i colori e ognuno di noi è bello questo anche del dare i colori, sceglie colori diversi. E ora passo un pezzo che ha scelto il nostro amico Luca, quindi parliamo di Alessandra Amoroso, Vivere a colori. Vivere. viaggi pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi, alla stazione un'emozione, alla vita che si fa sognare. Sento il suono del metallo che stride, mentre passo qualcuno sorride, frena il treno e mi sposta un po', adesso lo so, sto arrivando da te. Niente di più semplice, niente più da chiedere. Rimanderò tutto a domani, sono di carta tutti gli aeroplani, sei tu il mio re, io la tua regina, in un'eterna Roma e all'aria tutti i piani, ti avviciniamo ai sogni più lontani, e tu lo sai che non c'è segreto. A vedere, e oltre che tu sai sentire, amo te, niente di più semplice, amo te, niente in più da chiedere, rimanderò tutto a domani, sono di carta tutti gli aeroplani, sei tu il mio re, io la tua regina, in un'eterna Roma e all'aria tutti i piani, e avviciniamo i sogni più lontani. Torniamo in diretta, questo è Jolly Roger come tutti i venerdì dalle 17 alle 18. Salutiamo il nostro, forse l'amico più piccolo che ci è venuto a trovare in quest'anno di Jolly Roger, che si chiama Ale. È un bambino che è venuto, è molto curioso, sta qui vicino a me, sta guardando il computer. Poi dopo ti spiego come funziona anche il programma, che è la prima cosa che mi ha chiesto, quindi notare che differenza già tratto dalla tecnologia, soprattutto da cose buone, perché quello che facciamo noi riteniamo che siano cose buone. Questo però sta anche un po' a voi, faccelo capire. Noi ci proviamo, insomma, proviamo soprattutto a raccontare un po' di cosetta alla maniera nostra, e soprattutto ci piace non avere schemi, essere liberi e felici, insomma. Detto questo, ritorniamo sul tema della puntata. Si parlava di colori, abbiamo ascoltato il vivere a colori, perché la vita è bella se è colorata e non può essere una vita in bianco o in nero. Esistono le sfumature che ci accompagnano giorno dopo giorno, così come i nostri stati d'animo. Ora passo il mic al nostro amico Luca, che è il suo momento, il momento delle battute. Ho toppato io, scusate, non parleremo dopo delle battute, ma Luca voleva dire non so cosa, però va bene così, io gli passo il microfono, vediamo cosa ci racconta. Vi racconto, sta cosa potrebbe interessarvi o interessarvi, ma oggi vi racconto di una cosa che a me appassiona molto e so descrivere molto la storia dell'Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche. Questo paese. Che è rosso, ovviamente, visto che è il suo colore preferito, ha detto anche lui che è un antifascista e evidentemente la curiosità avanza e quindi è giusto che il nostro amico racconti quello che sta leggendo. Allora, questo paese cominciò a crearsi nel 1923. Il primo presidente è stato Vladimir Lenin, che nel corso degli anni, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'URSS ha invaso Estonia, Lituania e Latvia e un pezzo di Polonia e anche la Moldavia accanto alla Romania. Questo è il momento Bignami di Jolly Roger. Parliamo di storia sintetizzata in 2 minuti. Vediamo quanto riesce a sintetizzare il nostro amico Luca, che è bravissimo. Il nuovo presidente è stato Iosif Stalin, che nel corso poi durante il 68. Arriviamo ai giorni nostri, perché siamo partiti da Gesù, arriviamo anche alla resurrezione, giusto? Giorni di oggi. E poi durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, l'URSS e gli altri paesi hanno distrutto la cosiddetta Germania nazista del Führer del Terzo Reich, che Stalin morì il terzo presidente dell'URSS di Ansdrev. Arriviamo al presidente attuale. Chi è il presidente attuale? Cosa vuole dire il presidente attuale? Putin. Allora, dicevo, arriviamo al presidente attuale. Cosa volevi dire del presidente attuale? E poi il momento politico della puntata è finito. Allora, penso di Putin sia una persona. Allora, non mi faccia impazzire come presidente, ma come ultima cosa volevo dire che l'URSS si è sciolta nel 1991, 2 anni dopo la caduta del muro di Berlino, che è stato il presidente Gorbaciev, Bravo, ed oggi la Russia è solo un paese, diciamo. E adesso passo il mic, anzi dico il pezzo. Pastello bianco, pinguini tattici nucleari, per il tema colori di oggi. E se mai visto piangere, sappi che era un'illusione ottica. Stavo solo togliendo il mare dai miei occhi, perché ogni tanto per andare avanti sai, bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi. Mi chiedi come sto e non te lo dirò. Il nostro vecchio gioco era di non parlare mai come due serial killer interrogati all'FBI. I tuoi segreti poi a chi li racconterai? Tu che rimani sempre la mia password del wifi. E chissà se lo sai. Per favore non piangere e non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene, dalla prima elementare. Gli scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario. Speravo che venissi a colorarli e ti giuro sto ancora aspettando. E se mai visto ridere? Sappi che era neve nel deserto, ma ormai di questi tempi non mi stupisce niente. Ti chiedo come stai e non me lo dirai, io con la Coca-Cola, tu con la. la tisana trae, perché un addio suona troppo serio, e allora ti dirò bye bye. Seduti dentro un bar, poi si litigherà per ogni cosa, pure per il conto da pagare. Lo sai, mi mancherà. Na, na, na, na. Per favore non piangere e non ci rimanere male, che noi due ci conosciamo bene dalla prima elementare. Differenza tra le ciliegie e l'amarene, e io non la dimenticherò più. E ti auguro il meglio, i cieli stellati, le notti migliori e le torce di altri, dove tu forse non stonerai più. Per favore non piangere, non ci rimanere mai. E ritorniamo in diretta, questo è Jolly Roger, dopo il bignami dell'Unione Sovietica del nostro amico Luca, ritorniamo a qualcosa che più ci appartiene, torniamo ai giorni nostri e soprattutto a una rubrica che tutto il pubblico maschile ci reclama, pubblico maschile che ci ascolta il venerdì ovviamente, e sono i pronostici del nostro amico Luca. E del nostro amico Matteo, passo direttamente il microfono a Matteo e poi ritorniamo, passiamo ancora un po' di musica e continuiamo a parlare sempre di colori. Io Beta Ite Pite la Persia, poi Apple Unite Pite l'Apple. Poi Napoli all'altra pite Napoli. E ho detto Samp pite la Juve. Vabbè, speriamo che vinca la Samp. Noi, questi sono i nostri pronostici. Ovviamente, aspetta che vedo l'amico Luca che mi fa l'occhiolino, che anche lui ha due partite che per completare il picchetto da domenica. Dici un po' quali sono le tue partite, Lu? Allora, allora, per oggi dico Spezia Inter. Dico Bologna Lazio 3-0 per il Bologna. Abbiamo detto che non si parla di Roma e di Lazio. Che partita? A posto, due l'ha dette, due le doati. E niente, ripasso il mic al nostro amico Matteo. Saluto, seconda E. Allora, questo è il momento dei saluti, quindi salutiamo. Predetta Giovanna, ricorda E. La terza E del? Lorenzo Orazio. Perfetto, quindi noi andiamo con un altro pezzo musicale. Questo erano il momento delle scommesse. E diciamo che andiamo con un altro pezzo di un artista che, come ribadisco ogni volta che lo passiamo, mi ha fatto conoscere il nostro amico Matteo. Si parla di colori ed è si chiama Blu Celeste, questo è Blanco. Fumato blanchito quando solo a te, chissà come stai lassù ogni notte. A blu celeste, a blu celeste, a blu celeste. Il cielo è blu come il tuo nome, blu come l'inchiostro di Saperna, che scrive parole senza pensarle, e io non posso starne senza. È la ragione che rallenta ogni mio senso di colpa, e non c'è mostro che la tolga da me. Mi metterò a riparo mentre imparo ad accettare che se il tempo l'ha già fatto, ora sei un mio ricordo immaginario del fratello che vorrei, nato nel mese d'acquario, sarò il pesce tu lo squalo. Oh, oh, oh, oh. Siamo grandi per sognare, tu saresti maggiorenne, io ormai sono un sedicenne, vado per i 17, festeggerò da solo un altro compleanno di merda. Quando il cielo si fa blu, penso solo a te, chissà come stai lassù ogni notte. A blu celeste, a blu celeste, a blu celeste. Quando il cielo si fa blu, penso solo a te, chissà come stai lassù ogni notte. A blu celeste, a blu celeste, a blu celeste. Avevo un peso dentro, un peso da le fa, ci ho messo un pezzo a raccontarti sotto le luci di questa camera, tutto un disastro, doveva essere tutto perfetto, tipo luci spente vorrei scriverti al buio, tipo na na na na na na lui, tipo scriverti senza volerlo, tipo na na na na na bisbio, tipo na na na na na al buio, al buio. Quando il cielo si fa blu, penso solo a te, chissà come stai lassù ogni notte. A blu celeste, a blu celeste, a blu celeste. Perché a me? Quando il cielo si fa blu, penso solo a te, chissà come stai lassù ogni notte. A blu celeste, a blu celeste, a blu celeste. E ritorniamo in diretta. Questa era Blu Celeste di Blanco. Già due colori in una stessa frase, Blanco e Blu Celeste. Mazza quante ne so, manco se avessi studiato, mazza. Allora, abbiamo fatto il momento delle scommesse, e ora ovviamente manca l'altro momento, quello che anche il pubblico femminile, oltre che quello maschile. Intanto nel frattempo partono i cori da stadio da quell'altra parte, e è il momento delle battute. Andiamo così, passo il mic al nostro amico Luca. Qual è il fiore che si esprime a gesti? La mimosa. Ho perso la mia terza laurea. Ho preso la mia terza laurea. Bravo. Ti staranno utili per friggere al McDonald's. Vuoi sapere una battuta spiritosa? Certo, non sto più nella pelle. E ora passo il mic a Pietro. E questo era il nostro, le battute, il momento più ascoltato da tutti i nostri teleascoltatori. Che fai, tante cose ci possono anche riascoltare tramite podcast. Già condivisibile nei prossimi giorni. Andiamo con un altro pezzo musicale e poi ritorniamo in diretta sempre qui dal Brancaleone. Vai. Io che non ho mai avuto una donna per un po', ho sempre tenuto le relazioni distanti. Vogliono tutte prendere qualcosa che non ho. Non ci si lega alle persone quando si è grandi.

ti ho detto come mai una domenica buttai nel cesso la fotografia in cui ci stringevamo forte, colpa mia. Se quest'anno ti hanno visto mi dicono vomitare gli occhi e l'anima a un concerto rock, abbracciata ad una testa di cazzo, un regista, un coreografo, che ne so, un lavoro come un altro, una droga per illuderci e credere di essere uomini. Dicevi soltanto per un LP, il lato A, il lato B, che niente dura per sempre, nemmeno la musica. Perduto amore, anima mia, vorrei sapere come stai, se come scrivi è tutto ok, e se davvero ora lo sai che sono diventato un mostro, colpa tua. Se mi viderò nel buio di un vicolo all'uscita posteriore di un concerto rock, vomitare una troietta qualunque, ma che ne so, il tuo pessimismo da quattro soldi chiaramente aveva fatto proseliti. Dicevi I wanna be Amanda Lear, il tempo di un LP, il lato A, il lato B, che niente dura per sempre, finisce ed è meglio così. Amanda Lear, soltanto per un LP, il lato A, il lato B, che niente dura per sempre, figurati io e te. E ritorniamo in diretta, questo è il finale di Jolly Roger. Salutiamo tutte le amiche e tutti gli amici che ci hanno ascoltato e tutti quelli che ci supportano, oltre che ci sopportano. E buon weekend a tutti e a tutte, ci si risente settimana prossima, come tutti i venerdì dalle 17 alle 18, solo su www.pirateradio.it. Salutiamo Radio Grad che ci ritrasmette il mercoledì sempre dalle 17 alle 18, tutti gli amici di Gemini Network. Salutiamo tutte le amiche e tutte le amiche del Brancaleone che ospitano fisicamente Jolly Roger. Salutiamo le amiche del GAS col quale condividiamo lo spazio e tutti i colleghi di Idea Prisma. Buon weekend a tutti e a tutte, ci si risente settimana prossima. Ciao! Ciao a tutti, un saluto al Ciofs, ai miei professori Giuliano Mascolo, Michele e tutti quanti. Una ultima cosa, Auf Wiedersehen! Vabbè, poi solo lui lo sa. Vai col saluto, Luca, pure tu, se ci fa pure in lingua, visto che il nostro amico Luchino ci ha fatto il saluto, non so in che lingua. Dopo aiuto! Perfetto, buon weekend a tutti e a tutte, a settimana prossima! Poveraccio conta con le dita, il medico e le tasse da pagà, ma il conto non gli torna su sta vita, se non ne può godere che campa fa. 20 anni fa lui prometteva bene, vedrai che belle cose che farà, qualcosa è nato storto per la strada, la vita è palla lunga e pedalà.